It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è ammorbata da pesanti miasmi, K e Drago parlano di New Age con il pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Pollo in sbattimento, credimi, l'amministratore delegato è diventato un'altra persona con la New Age. La New Age? Sì, la New Age. Sì, pollo in sbattimento, la New Age sembrava passata di moda. Invece ma no. Resta sempre una delle fonti di massima serenità per gli uomini di quest'epoca. Ecco, New Age. Io preferisco la paroxetina. Ma sono due cose diverse, forse vanno associate. Ma che associate? Come no? La paroxetina è una pillola, te la mandi giù e poi stai bene. La New Age invece, cioè, prima devi leggerti dei libri pieni di cagate. A non usare incensi puzzolenti. Ma vabbè. Fare i fiori di Bach, mi viene solo il nervoso se solo ci penso. Che cosa? Ai fiori di Bach. Fiori di Bach? Perché? Ma sì, sta solo dei fiori di Bach. Vabbè. Ma ti vedo un po' giù. Ma hai provato i fiori di Bach? Ma vabbè, sì, poi tutti li abbiamo provati e abbiamo visto che. Che? Che non funzionano. Non funzionano, vabbè, insomma, tu sei un caso un po' speciale, tu sei troppo aggressivo, la New Age non può niente con te. Quindi. Vabbè, vorrei vedere te. Qui siamo sempre in attesa che succeda qualcosa. Prima il golpe del colonnello Ungiute. Poi la viaria. La viaria lo so. Poi il rischio di genocidio. Lo stamping out. Vabbè, oh, capo. E qui in fabbrica l'aggressività è l'unico modo per sopravvivere. E questo lo dicevano anche all'Assad, all'Intersider a Genova, e alla Siet Siemens a Milano. Lo ricordate, eh? Beh, come no, certo. Guido Rossa, Moretti. Qui in fabbrica il malcontento sta crescendo. E l'ultima volta che è cresciuto davvero il malcontento in fabbrica, sono spuntate fuori le Brigate Rosse. Vabbè, ma adesso cosa vuol dire? Infatti, cosa fai? Minacci? Ma cos'è? Non vorrei mica diventarmi un brigatista, un terrorista guidato dai servizi segreti. È una professione ormai antiquata. Ma sì, fuori dal parte tempo. Del secolo scorso. Ventesimo secolo. Io ve l'ho detto. Che stiano attenti. Anzi, che stessero attenti. Così capiscono meglio. Ma chi? Che se parli la loro lingua, loro capiscono meglio. Che stessero attenti. Ma chi? Ma di chi parli? Che stessero attenti chi? Loro. Loro, no? Chi se no? Quelli che decidono stamping out. Me li vedo già lì, tutti belli eleganti. Li tagliamo la testa e poi li mettiamo nelle camere a gas, bruciamo le carcasse, spariamo a vista. Ma siamo pazzi? Noi siamo uccelli, mica siamo dei mostri assassini. Siamo polli. E se ci ammaliamo è colpa degli uomini. Allora cosa fanno gli uomini per riparare le loro colpe? Un bello sterminio dei polli. Ah, bravi, ma non si fa mica così, Qui in fabbrica si appeggia lo sbattimento, quello duro. E non c'è niente di peggio di un gruppo di polli di sbattimento senza becco. E sono 25.000 senza becco. Ma io ce l'ho il becco, Sai dolcigini. Ogni tanto, quando la mezzanotte si stanca di portarmi i clienti e mi lascia un po' in pace nel mio chiosco, e mi fermo a fissare i lampioni, le puttane, i giornali vecchi sbatacchiati dal vento. La verità, il cavalcavia dove 20 anni fa ho parcheggiato il mio camion farcito di salse e porchette è veramente il posto più brutto della città. Ma dovevano darmi un premio, perché la bruttezza è un errore solo quando dura poco. Ma nel caso mio, queste 7.000 notti nella puzza, se la meritano una medaglia al coraggio e alla resistenza o no. Io quando sto così, qui, fermo, a fissare davanti a me, me ne torno con la testa al mio paese, giù. E penso a come potevo stare, mo, se rimanevo là. Forse tenevo un chiosco in riva al mare, affollato di belle ragazze straniere che ridono, mentre quelle che ci sono qua davanti battono e basta. Poteva essere uno di quei posti che si ingrandiscono col passare degli anni, eh? E in bassa stagione magari vengono a trovarti gli amici, i vecchi compagni di scuola, tanto per persi un caffè. Poi improvvisamente questi pensieri si spezzano, perché mi ricordo che io, di amici, praticamente non ne tenevo. E che la scuola l'ho lasciata talmente presto che non saprei nemmeno riconoscere il mio ultimo compagno di banco. E per via di questo che ho preso un treno, sono arrivato qui, sotto a questo cavalcavia. Così ho capito che, in realtà, tutte le volte che fisso il vuoto, non è che torno veramente indietro con i ricordi, no. Io torno a fianco, oppure un po' più sotto, o addirittura torno in una zona di vita che nemmeno ho vissuto e che non ci sta sulle mappe della memoria, come quei posti dove si nascondono i rifiuti nucleari, eh? Ecco, a me ricordare serve a questo, a farmi un giro nella discarica dove si smaltiscono i sogni. I want you. Baby, you have bird flu. I want you. But don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guai te se mi tocchi che magari c'hai la viaria. I want you. Noi giovani polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you, but baby you have bird flu. I want you, but don't you have a bird flu. Però Pollastri, alla vostra età. La vostra età, ma... Che ormai dall'aspetto mi sembrate belli maturi. Verso i 40 direi, eh. Pensa per te, Paul, in sbattimenti. Scusa, 40. Pensa per te, 40 e anche 50. Passato remoto, eh. Alla nostra età. Mi fate ancora fregare della New Age, della cultura indiana, quelle palle lì. No, no, però aspetta, cioè, scusa Paul, tu che sei un appassionato di krautrock dovresti sapere che il krautrock era tutto pervaso di influenze indiane, no? Ci sono un sacco di composizioni cosmiche dei Tangerine Dream, dei Popol Vuh, anche i Kraftwerk all'inizio, i primi due dischi, no? Sì, ma però, guardate che io la New Age me la ricordo, eh. Quando lavoravo nel negozio dei dischi, arrivavano certi tipi, quelli che si fanno la villetta a 100 metri da Milano in mezzo al verde, no? Che venivano lì e volevano i dischi con il rumore della natura. Ma dico io, se abiti lì in mezzo agli alberi, cosa vuoi? Apri la finestra, senti i grilli, il gallo, la pioggia, il ruscello. Beh, è vero, senti anche l'autostrada che hanno costruito nel tuo cortile. Però mi sembra il caso di spendere 30 euro per un CD di suoni della natura. Ma io quei clienti li chiamavo New Age Bamba. E New quelli? Age Bamba? New Age Bamba. Invece belli. Se tu ti rilassi con 3.000 uccellini registrati, sei un Bamba. Ecco. Eh sì. E tu li chiamavi New Age Bamba? New Age Bamba. Ma sono dei Bamba. Sì, però poi? E poi il negozio l'ho chiuso. Poi? E poi? E poi sono andato in sbattimento. Vedi, chiami i tuoi clienti Bamba, poi per forza chiudi il negozio e vai in sbattimento. I clienti hanno sempre ragione. Vabbè, anche se sono dei Bamba. E su questa domanda legittima del pollo in sbattimento, la fabbrica di polli chiude per due giorni, ma torna puntuale lunedì a mezzanotte su Radio 3. Se proprio non potete farne a meno, cercate di capire come funziona il podcast di Radio 3 e potrete riascoltarvi i passati indimenticabili allestimenti de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago, con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma, Luca Micheli, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La fabbrica di polli è rai.it. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. This program is on the air every night at the same hour. Good night, ladies and gentlemen, good night. Bar numero 9.